in primo piano. Buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come potete immaginare, ci sono tutti i quotidiani che hanno dato la notizia del terremoto a Ischia, anche se essendo stata la scossa alla sera, poi il bilancio è provvisorio, quindi anche durante questo GR, questa rassegna stampa, se ci saranno notizie, naturalmente daremo la linea ai colleghi del GR. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che apre però su una lettera che ieri i ministri dell'industria di Italia, Francia e Germania hanno mandato alla Commissione europea per contenere gli interventi cinesi nei settori strategici. È interessante perché pochi giorni fa una specie di simile invito al contenimento era arrivato proprio da Pechino, che però invita in realtà gli imprenditori e le aziende cinesi a concentrarsi su certi settori e a lasciarne stare altri, come lo sport, considerato forse un po' troppo aleatorio in termini di profitti. E invece desiderano proprio che gli investimenti si concentrino su quei settori che invece per i singoli paesi sono strategici, quindi l'energia, l'industria, in generale tutti i settori tra virgolette pesanti. Chiesto un limite, quindi adesso si muove l'altra parte, si muove l'Europa, ha chiesto un limite per tutti i capitali extra Unione Europea. Tra l'altro lo spunto anche in Italia per parlare di questo è che ieri un'azienda che non era già più italiana come proprietà, ma continua a essere italiana come concezione, come management e come prodotti, che è Permastelisa, è passata ai cinesi di Grantland. E poi naturalmente c'è la questione che avete sentito anche nel GR dell'interesse di questa azienda, questo gruppo cinese Great Wall, per la Fiat Chrysler. O meglio, per Jeep, che è parte di Fiat Chrysler, e questa notizia, questa indiscrezione, come avete sentito nel GR, che per ora il gruppo guidato da Marchionne non conferma, ha fatto volare il titolo, scrive il Sole 24 Ore in prima pagina, del 6,9%. Vi segnalo dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche la 16ª puntata dell'Agenda del Professionista, che oggi è dedicata a come cambia il conto economico con le nuove leggi, e poi un bellissimo ricordo di Salvatore Carrubba, che del Sole 24 Ore è stato direttore ma è stato anche assessore alla cultura di Milano. Gli ascoltatori di Radio 24 lo conoscono bene perché ha la sua trasmissione sui libri, e ricorda Guido Rossi, che è morto ieri a 86 anni, era nato nel 1931, grandissimo giurista, ma anche ha avuto un ruolo in tutta la storia della finanza e dell'economia italiana, e poi era anche un bibliofilo, un appassionato di arte, da qui il titolo Diritto, Finanza, Arte, le passioni civili di un gran borghese. E trovate questo ricordo, in realtà tutti i giornali hanno tantissimi ricordi gli articoli sono firmati da editorialisti o ex direttori di quegli stessi giornali eccellenti. Questo però non solo perché è sul Sole 24 Ore, mi sembra il più bello, il più completo, il più sentito, e lo trovate appunto richiamato in prima pagina e poi a pagina 6. Dalla prima pagina vi segnalo anche la seconda puntata dell'inchiesta di Leopoldo Benacchio sui satelliti, perché oltre al fatto, come avevamo visto anche nelle settimane scorse, che sopra di noi il cielo si sta riempendo di satelliti, quasi una sorta di spazzatura elettronica che equivale un po' a quella per esempio che c'è negli oceani, che invece è sostanzialmente composta da plastiche. Ora però i satelliti si stanno riducendo di dimensioni in modo incredibile, e lo vedete nella foto sulla prima pagina del Sole 24 Ore, perché due dita tengono in mano questi nuovi microsatelliti che hanno la stessa potenza di quei giganti metallici che siamo invece abituati a immaginare quando pensiamo ai satelliti. Microsatelliti, la nuova frontiera dello spazio. La prima pagina del Corriere della Sera, naturalmente anche sul Sole 24 Ore, c'è la notizia del terremoto di Ischia, con tra l'altro all'interno, perché poi purtroppo questo nuovo terremoto di Ischia si incrocia con l'anniversario invece della prima scossa nel terremoto del centro Italia dello scorso anno, che fu il 24 di agosto. Da qui il titolo del Corriere della Sera: terremoto a Ischia, crolli e dispersi. È una scossa di magnitudo 3-6, quindi 2 punti circa meno delle più forti del terremoto di un anno fa. Vi segnalo dalla prima pagina il ricordo anche in questo caso di Guido Rossi. In realtà ci sono ben tre articoli, uno molto così che ripercorre proprio la biografia di Paola Pica e Gian Giacomo Schiavi, e poi invece il ritratto firmato da Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, ora editorialista, ma anche, come sappiamo, ex direttore del Sole 24 Ore. Il sacerdote laico amante delle regole. Ci fermiamo però un attimo per il traffico. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta In primo piano. Rieccoci sulla prima pagina del Corriere della Sera. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie agli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo un interessante articolo di Sabino Cassese che si intitola La reazione che ancora non c'è, e torna su quel tema che credo non sia mai abbastanza discusso, del fatto che all'indomani di un attentato, o di più di un attentato, firmato da fondamentalisti islamici, la reazione delle comunità islamiche stenta a essere percepita. Sappiamo che uno dei problemi è che, a differenza della Chiesa cattolica o della Chiesa ortodossa, l'Islam non ha un capo unico riconosciuto, ma questa spiegazione non basta, sinceramente, e la reazione, da qui appunto le parole di Sabino Cassese, la reazione che ancora non c'è. C'è un grande assente nelle vicende tra loro intrecciate degli attentati terroristi islamici e del controllo statale dell'immigrazione: le comunità islamiche. Eppure i cittadini di origine o fede musulmana, che rappresentano circa il 7% della popolazione dell'Europa, complessivamente 49 milioni di persone secondo stime recenti, sono danneggiati due volte dal terrorismo. Gli attentati producono innanzitutto negli stati una reazione di diffidenza nei confronti delle comunità islamiche già stabilite, una diffidenza che non agevola il dialogo interreligioso, la pacifica convivenza, l'integrazione. L'altra è una reazione di chiusura degli stati a danno dei migranti appartenenti alla medesima comunità, che sarebbero interessati a entrare nei nostri paesi. E da qui appunto poi l'articolo continua a pagina 9. Sì, certo, a Barcellona per esempio si sono visti alcuni musulmani in piazza con cartelli che spiegavano quanto si sentano lontani dall'idea di un Islam che uccide, che un Islam che uccide in nome di Allah. Però è altrettanto vero che appunto reazioni forti di massa, manifestazioni di massa di comunità islamiche contro il terrorismo di matrice islamica non si sono viste. La Repubblica, terremoto a Ischia, vittime dispersi, quindi la Repubblica sceglie di titolare su questo. Poi, come tutti gli altri giornali, c'è anche la notizia, l'avete sentito nel GR, della polizia spagnola che ha ucciso l'ultimo dei terroristi ricercati. Molto spazio in il ricordo di Guido Rossi, Repubblica lo affida a Federico Rampini. La Stampa ha una foto che tra l'altro è una foto postata su Twitter da una persona che era a Ischia. È una foto molto significativa di un crollo a Casamicciola, che è uno dei paesi, uno dei comuni di Ischia. Tra l'altro, ricordiamolo, Ischia è uno i comuni di Ischia sono quelli con il più alto livello di abusivismo in Italia, e infatti ci sono poi, e sicuramente se ne parlerà oggi, ci sono già molti sismologi che si chiedono come un terremoto di magnitudo 3.6, ripetiamo, due punti meno di quello del 24 che è iniziato, delle scosse che sono iniziate il 24 agosto scorso nel centro Italia, abbia potuto comunque provocare così tanti danni. Per ora ci sono almeno 30 feriti, 3 dispersi, una donna morta, ma è un bilancio che sicuramente andrà aggiornato. Il titolo principale della Stampa però è dedicato a Barcellona. L'artificiere aveva istruito anche la cellula ISIS del Bataclan. Ricorderete gli attentati al teatro del Bataclan che fecero oltre 100 morti in Francia nel 2015. Il Messaggero, killer ucciso, la rete dei complici, quindi anche in questo caso non soltanto la notizia di cronaca ma anche un tentativo di capire come si sia arrivati alla costituzione di questa cellula. La fotonotizia però è dedicata a Melania e Donald Trump con gli occhiali. Poi in realtà su internet ci sono anche delle foto in cui Donald Trump guarda in modo molto così ingenuo, e per questo è stato molto attaccato, guarda porta l'eclissi senza occhiali, una cosa che non bisogna assolutamente fare, però in questa foto, la foto ufficiale, dal secondo piano della Casa Bianca, Donald Trump e Melania guardano questa eclissi, che è l'eclissi più vista di sempre, metà America col naso in su. In prima pagina un commento anche di Carlo Nordio sull'appello che vedremo anche sull'Avvenire più tardi, l'appello del Papa fatto ieri. Il pontefice invita il Parlamento, ma è un invito che cadrà nel vuoto perché non ci sono i tempi e soprattutto non ci sono i numeri per approvare la legge sullo ius soli, cioè che darebbe diritto alla cittadinanza a chi nasce in Italia. Naturalmente anche la notizia del terremoto, e Osvaldo De Paolini firma il ricordo di Guido Rossi, addio a Rossi, il giurista manager che divise il mondo della finanza. Ecco qua l'Avvenire, l'apertura è appunto su questo messaggio del Papa per la giornata 2018 del migrante e del rifugiato, il virgolettato accogliere e dare cittadinanza, e all'interno ci sono moltissimi approfondimenti su questa questione. Vi segnalo in particolare l'analisi a pagina 3 di Marco Impagliazzo, migrazioni, così è possibile coniugare umanità e legalità. Tra i punti che solleva Marco Impagliazzo, stabilizzazione della Libia, politiche di cosviluppo, nuovo decreto sui flussi, ricongiungimenti, corridoi umanitari. Cosa fare di concreto per affrontare al meglio un fenomeno epocale? Il Fatto Quotidiano invece torna, fa la stessa apertura sostanzialmente di ieri, su quel brutto fatto di cronaca del ragazzo di 23 anni morto in un ospedale di Napoli perché... così dicono le prime indagini, per 4 ore si è stati indecisi tra infermieri e medici e operatori sanitari su come curarlo. Pronto soccorso horror, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, malati scambiati e interventi sbagliati, perché poi purtroppo questo caso di cronaca ha puntato i riflettori su un pronto soccorso, quello napoletano, e su altre strutture sanitarie dove possiamo veramente dire che accadono fatti di mala sanità. In prima pagina anche il terremoto di Ischia, sempre con questa foto presa da Twitter, perché è una foto scattata a Casamicciola, che è appunto uno dei comuni di Forio, di Ischia, e poi anche la notizia della polizia che ha scovato a 50 km da Barcellona il killer che era in fuga, l'ultimo dei terroristi in fuga, aveva 22 anni ed è stato ucciso. Poi questa notizia che trovate sulle altre pagine, sugli altri giornali all'interno, il Fatto Quotidiano la mette in prima pagina. Io veramente non so come si possa continuare a chiamare una persona faccia da mostro, ma tant'è. Questo signore, Giovanni Aiello, che aveva 71 anni ed era un ex agente della polizia, così per i canoni evidentemente della maggior parte delle persone che lo hanno incontrato, non era un bell'uomo, e da qui viene chiamato sistematicamente nei titoli faccia da mostro. Muore faccia da mostro è l'ultimo dei suoi misteri. Secondo me non esistono volti mostruosi, comunque questa è purtroppo la definizione di questo signore, che sul quale pendevano ben 4 indagini, e quindi per questo i titoli se ne va con i suoi misteri, perché era sospettato per esempio di essere un fiancheggiatore della mafia. La Verità: ora servono più controlli sugli islamici. Come sapete, Bruno Tinti, a proposito di Fatto Quotidiano, ex magistrato, era commentatore nonché azionista del Fatto Quotidiano, è passato alla Verità, il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro, e a lui è affidato l'intervento di oggi. La sua ricetta: non si integrano e non rispettano la nostra cultura, gli islamici. Servono ispezioni di polizia anche individuali, divieto del velo nei luoghi pubblici, verifiche su viaggi, contratti e conti correnti, espulsione degli imam radicali e un'offensiva per liberare le loro donne. Questa è la parte più... così che mi piacerebbe, se mai lo incontrerò, ma non accadrà, approfondire con questo ex magistrato, perché mi sembra di sentir parlare di esportare la democrazia. Cosa vuol dire liberare le loro donne? Credo che le donne dell'Islam debbano trovare una loro autocoscienza e liberarsi da sole da questa oppressione maschile, che poi deriva o viene mascherata da oppressione religiosa. E un'intervista richiamata in prima pagina di Luca Telese, che tra l'altro tra pochi giorni, tra meno di 2 settimane, sentirete da questi microfoni, a Salvini, Matteo Salvini. L'intervista è intitolata «Il Papa sbaglia, anche gli elettori di sinistra con noi sugli immigrati». Naturalmente il riferimento alle dichiarazioni di ieri sullo Ius Soli, sulla legge sullo Ius Soli, le dichiarazioni di Papa Francesco. In prima pagina anche una notizia che ha soltanto la verità, che prosegue, che continua ad approfondire, a tenere vivo il tema, le indagini sulla Popolare di Vicenza, il crack della Popolare di Vicenza. Sapete che l'ex presidente Zonin, che anche fa parte anche della famosa dinastia di vinaioli veneti, l'ex presidente Zonin ha sempre detto che lui non sapeva niente delle operazioni poco chiare, dei crediti concessi con troppa facilità, dei crediti non esigibili, eccetera eccetera. In questo momento è anche nulla tenente per il fisco, perché ha intestato tutto ai figli. La verità continua a indagare su questa vicenda e spiega che, secondo un'informativa della Finanza, Gianni Zonin, ex presidente di Popolare Vicenza, conosceva dal 2011 le operazioni baciate, ovvero dare prestiti a chi acquistava azioni dell'istituto, un sistema che avrebbe gonfiato di 963 milioni, ci ricorda la verità, la capitalizzazione della banca. Zonin, con i pubblici ministeri, aveva negato, perché diceva di essere stato informato solo nel 2015 dalla BCE di questi prestiti baciati. Zonin quindi scrive la verità, Zonin ha mentito. Il giornale: il golpe del Papa Re, un attacco a Papa Francesco. Il sommario è: Francesco a gamba tesa spinge per la legge, patto segreto con Gentiloni. E poi nello stesso titolo, la riga sotto, ucciso il killer di Barcellona, morto invocando Allah. Molti i commenti a questa vicenda. Francesco Del Vigo a pagina 7 ne firma uno che si intitola Paradosso buonista. Il Libero ha una foto di Papa Francesco, uno scatto proprio rubato, con l'articolo di Filippo Facci, una foto non uno scatto felice, ecco, diciamo così, di Papa Francesco. Il titolo: cittadinanza, sanità, pensioni, il Papa, due punti, diamo tutto agli islamici. Io sfido chiunque a trovare le parole per giustificare questo titolo, le parole dette da Papa Francesco per giustificare questo titolo. Comunque, il titolo principale però è riferito a un articolo di Vittorio Feltri, che di Libero è il direttore: come Gentiloni spreca i soldi delle nostre tasse, contributi ai Rom per fare politica, fondi ai migranti e assegni di inclusione. Il governo spreme noi per non affrontare i problemi. Poi un'inchiesta di Franco Bechis, qui invece ci sono numeri, proprio number checking per supportarla, e che è un po' da mani sul volante, perché scopriamo che la Camera, uno dei due rami del nostro Parlamento, ha 4.866 opere d'arte molto pregiate, ma ha appena deciso di acquistarne altre 33, perché così gli uffici saranno abbelliti. Naturalmente con i soldi delle nostre tasse. Poi c'è anche la notizia del sisma Ischia, con questa ancora non c'era qui la notizia della persona probabilmente appunto morta, e si parla però di una ventina di feriti. Ci lasciamo un attimo per una breve pausa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon martedì, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, non tutti positivi come sempre, ma è giusto così. E in particolare vi segnalo come a volte si possono veramente avere delle opinioni diverse. A distanza di 2 minuti sono arrivati 2 messaggi, uno che dice: a Barcellona erano in 30 islamici contro il terrorismo, diciamo che è stata una pagliacciata, e un altro che dice: ma che diavolo dite, ieri a Barcellona c'è stata una, leggo testualmente, oceanica manifestazione di musulmani. E questo ascoltatore in particolare aggiunge anche che siamo impresentabili per aver detto che invece queste manifestazioni oceaniche non ci sono state. Purtroppo la verità è questa. A un altro ascoltatore che scrive: brava, fatti tu lapidare, frustare, poi sai la forza di emanciparti, complimenti, un genio, rispondo che questo è un paese dove le donne hanno il diritto di voto dal 1945, dove pochi anni fa è stato detto che una donna non poteva essere stata stuprata perché portava i jeans, e dove in alcune regioni del sud ancora esiste il diritto di ancora esistono le spose bambine. Quindi io non penso assolutamente che le donne abbiano conquistato i diritti che meritano a partire dal nostro paese, però non mi risulta che siano arrivati dei liberatori. Sono purtroppo percorsi molto lenti, culturali, sociali, e secondo me purtroppo con tutte le sofferenze che annesse sarà la stessa cosa per le donne musulmane. Non ci sarà un Bruno Tinti della situazione a liberarle dall'oppressione della loro religione e soprattutto dei maschi della loro religione. La prima pagina del manifesto ha una fotonotizia dedicata a Papa Francesco, undicesimo, sta per naturalmente undicesimo comandamento, Ius Soli. Il Foglio invece, come sempre, ha un collage in copertina, non c'è un titolo forte e unico, sono più che altro commenti, da una parte su quello che sta succedendo negli Stati Uniti, il discorso di Donald Trump, che tra l'altro potremo poi seguire e commentare più tardi, perché ha iniziato alle 9 americane, quindi le 6 del mattino qui, quindi molti commenti su questo. E poi visto che parlavamo del ruolo degli uomini nell'Islam, un articolo di Annalena Benini che a me è piaciuto molto, si intitola «Il conflitto fra padri e figli nell'Islam, l'Edipo che piace all'ISIS, uccidere la famiglia per distruggere tutto». Vi leggo soltanto la prima parte. «I reclutatori dell'ISIS sanno che la prima cosa da fare, avendo fra le mani un ragazzo arrabbiato da addestrare e preparare al martirio assassino, è demolire la sua famiglia. Dirgli che suo padre non ha ottenuto niente, non ha cambiato il mondo e di certo proverà a impedirgli di diventare un eroe. È un trucco che funziona e che sfrutta l'età, l'insoddisfazione, l'energia frustrata di un ragazzo che non sa da che parte diventare grande». Tagliare i ponti, diventare grandi, ribellarsi anche a quello che i genitori, gli zii e i nonni non hanno fatto, realizzare al posto loro quelle frasi bisbigliate nelle moschee. Come sempre vi segnalo anche qualche prima pagina dai quotidiani stranieri. La Frankfurter Allgemeine, il quotidiano tedesco, oggi parla per due motivi dell'Italia, anche se l'apertura è dedicata anche oggi alla questione dello scontro tra Germania e Turchia, o meglio tra Angela Merkel e il presidente Erdogan. Infatti il caso Erdogan prosegue, perché le ultime notizie sono che il presidente della Turchia vuole fare arrestare dall'Interpol chi lo critica all'estero, come in quel caso che abbiamo citato ieri di uno scrittore di origine turca con cittadinanza tedesca arrestato in Spagna. C'è poi all'interno però, come vi dicevo, un articolo sulla questione sul risico automobilistico e questi scenari addirittura, secondo la FATS, per una vendita di alcune parti di Fiat Chrysler. E poi c'è anche un approfondimento sul populismo in Europa, e nella foto come rappresentante della politica italiana c'è Matteo Salvini al centro. Il Washington Post ha già naturalmente ho stampato da internet, quindi c'erano già degli stralci del discorso di Donald Trump, e il titolo è Trump affronta la dura realtà, non c'è nessuna scorciatoia per la vittoria in Afghanistan, né c'è una easy way out, un'uscita semplice dalla questione dell'Afghanistan. Tra l'altro, come anche ben raccontato dall'editoriale di Alberto Negri, che inizia sulla prima pagina del Sole 24 Ore. La guerra ai terroristi riparte da Kabul, Kabul capitale dell'Afghanistan, e tra l'altro l'Afghanistan è al centro di questi scenari geopolitici da tantissimo tempo. Al di là del conflitto in Afghanistan che ha coinvolto l'ex Unione Sovietica per così tanti anni, ricorderete che dopo l'11 settembre il primo attacco, la prima reazione militare fu proprio contro l'Afghanistan. Le Figaro invece si occupa di una vicenda interna, che è quella di Macron. Il presidente Macron sta facendo un tour dell'Europa dell'Est, e ne abbiamo parlato anche sul Sole 24 Ore. È una notizia che magari può sembrare molto francese, in realtà riguarda la questione dei lavoratori francesi all'estero e di come vengono trattati, e Macron sta facendo questo tour incontrando molti capi di Stato perché non vuole cambiare le regole appunto per tutti i francesi che lavorano fuori dalla Francia, in particolare nell'est Europa. Il Guardian dedica i titoli principali a Donald Trump, e vi dicevo, pubblica in prima pagina una di quelle foto dove Donald Trump è stato sorpreso mentre guardava l'eclissi, o almeno alzava la testa per cercare di guardare l'eclissi senza gli occhiali che vengono caldamente consigliati. Tutti i quotidiani spagnoli, come potete immaginare, hanno approfondimenti di ogni genere sulle indagini, sul fatto di cronaca di ieri, cioè l'uccisione dell'ultimo terrorista ricercato, e poi su tutte le indagini, con anche le analisi adesso su come deve muoversi la Spagna come paese, perché sulla Spagna incombe anche il referendum per l'autonomia della Catalogna, la regione in cui si trova Barcellona. C'era stato un tentativo almeno di far slittare questo referendum, visto quello che è successo. Il referendum invece è stato confermato, e vedremo come appunto la Spagna cercherà o proverà, e speriamo riuscirà, ad avere un fronte comune politico per la lotta, per le indagini, per l'intelligence contro il terrorismo. Andiamo alle pagine interne, e come vi dicevo la notizia di cronaca del terremoto a Ischia si incrocia con l'anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 colpì il centro Italia, e quindi c'è un approfondimento a pagina 4 di Massimo Frontera. L'Italia antisismica costa 36,8 miliardi. Questo è un rapporto, il rapporto Casa Italia, che il Sole 24 Ore analizza in esclusiva, che spiega che per mettere in sicurezza tutto il territorio il conto addirittura arriverebbe a 850 miliardi. Vi dicevo, il bel ricordo di Salvatore Carrubba lo trovate a pagina 6 del Sole 24 Ore. Guido Rossi, il rigore di un gran borghese, milanese doc, giurista insigne, era stato tra l'altro, ricordiamolo, presidente di Consob, l'autorità di controllo sulla borsa, di Telecom e della FIGC quando esplose l'ultimo scandalo sui campionati falsati. Molto interessante la copertina di Impresa e Territori, che è la pagina 9 del Sole 24 Ore di oggi, perché gli enologi spiegano che, soprattutto a causa del maltempo, purtroppo quella che sta arrivando, in alcuni casi è già iniziata, sarà la peggiore vendemmia del dopoguerra, soprattutto per le gelate primaverili che abbiamo avuto e poi per la siccità dei mesi estivi. La Francia non sta meglio, tanto che sempre Giorgio Dell'Orefice ci spiega che addirittura probabilmente sta peggio dell'Italia e ha già chiesto aiuti pubblici. Poi però c'è il caso della Campania, dove ci sarà una vendemmia in aumento del 5%, soprattutto grazie ai vigneti autoctoni. E poi il Veneto, che resta la regione leader in Italia per la raccolta del vino, con il presidente Mazzei che dice compenseremo con la qualità, quindi sarà anche in Veneto la peggior vendemmia, nel senso con la minor raccolta, però appunto si cercherà di compensare con la qualità. Come vi dicevo, la puntata numero 16 dell'Agenda del Professionista la trovate a pagina 16 del Sole 24 Ore, principi e bilancio. Sul Corriere della Sera invece Francesco Battistini, inviato a Londra, racconta come, per esempio a Londra ma anche in altri paesi, si stia cercando di pubblicare, di scrivere dei libri che aiutino i genitori o gli insegnanti a spiegare che cos'è il terrorismo ai bambini. In questo caso è un libro uscito di recente in Inghilterra, che però non a tutti pare adatto, pare lo strumento migliore, comunque è un tentativo. È un libro che viene distribuito nelle scuole elementari, un libro a fumetti con un'app anche, e che tra l'altro viene anche introdotto, ma con l'aiuto di corsi per i docenti, disegni e parole per dirlo ai bambini. Tra l'altro il Corriere poi con Francesco Battistini parla anche iniziative analoghe prese in Francia e in Israele. Il modello didattico dello Stato ebraico da anni prevede diverse lezioni ed esercitazioni su cosa fare, per esempio, in caso di lancio di missili nella striscia di Gaza. Quindi non è soltanto cercare di spiegare cos'è questa terribile piaga del terrorismo, ma anche eventualmente, soprattutto in paesi come Israele, spiegare che cosa fare se, per esempio, mentre i bambini sono a scuola c'è un attacco terroristico. Questa è una vicenda sempre sul Corriere della Sera, la trovate, ce la racconta Danilo Taino, corrispondente da Berlino, che accomuna forse un po' l'Italia alla Germania nei disservizi. Perché, come forse avete sentito, Berlino sta cercando di costruire un nuovo aeroporto, ma l'inaugurazione slitta continuamente. Da qui il titolo: Berlino avrà mai il nuovo aeroporto? Doveva essere pronto nel 2011, non aprirà nemmeno nel 2018. L'ultima data? Il 2019. E intanto Air Berlin è fallita. Vede che si sta cercando una soluzione per Air Berlin, così come la si sta cercando per Alitalia, però mentre per Air Berlin si profila il cosiddetto spezzatino, cioè la vendita o svendita dell'azienda in tanti pezzi, per Alitalia per ora il governo ha posto un veto a questa modalità di salvataggio. Ci fermiamo un attimo per l'ultima pausa sul traffico. No, non ancora. Ah, e niente, Peter Bescapè mi dice dobbiamo aspettare ancora un attimo, quindi ci spostiamo su Repubblica, che prosegue il suo viaggio, il suo reportage nei luoghi del terremoto del 2016. Oggi ad Amatrice Corrado Zunino ci racconta la scuola che riaprirà a Amatrice, dalla materna al liceo sportivo, la carica dei ragazzi che ripopolano la città. Però ora possiamo davvero sentire gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi. Mi fa ridere in particolare questo ascoltatore che dice la gattara è tornata, ho un po' questa fama appunto di essere gattara. Ma vediamo alle pagine interne, torniamo sulla Repubblica. Qui c'è una notizia che trovate anche su altri giornali e che per me è da mani sui volante e riguarda Sposetti, che è l'ex tesoriere degli ex DS, poi PDS, poi PD, che annuncia che alla ripresa dei lavori parlamentari, che dunque le commissioni riprenderanno i lavori il 30 di agosto, mi sembra, il Parlamento nel suo complesso riaprirà il 4 settembre, e dice: affosserò la riforma dei vitalizi. Ci spaventa con questa dichiarazione: ho costruito una maggioranza per stopparla. Allora facciamo una piccola premessa. La proposta sui vitalizi prevede di ricalcolare con il metodo contributivo, cioè quello che viene applicato alla maggior parte di noi cittadini, l'assegno dei circa 2.600 ex parlamentari che invece prendono la pensione con il metodo retributivo, cioè relativa all'ultima retribuzione che hanno avuto. I vitalizi, è vero, questo lo si ripete spesso, sono già stati riformati nel 2011, ma la proposta in discussione, che Sposetti vuole affossare, è che l'età minima della pensione per i parlamentari sia a 65 anni, anche per chi ha più di una legislatura. E allora Sposetti cerca di intenerirci dicendo: figure come Macaluso o Bonino, che hanno dato tanto alla politica, non meritano la pensione. Non si capisce perché dovrebbero avere la pensione prima di tutti gli altri cittadini. Vabbè, vedremo appunto se Sposetti a queste minacce avranno poi una... si concretizzeranno. Vi segnalo dalla Stampa, e qui mi rivolgo anche a tutti gli ascoltatori che quando parliamo di Amazon sono giustamente molto reattivi, perché Amazon ha rivoluzionato non soltanto l'e-commerce, ma poi ha avuto ricadute sul mondo reale, sui negozi nel mondo reale, a partire dagli Stati Uniti, ma poi anche in tutti i paesi dove è sbarcata, compresa l'Italia. E in questo caso Mario Baudino ha fatto un lungo incontro con Claudio Fanzini, che è il presidente di Messaggerie, una delle principali società di distribuzione di libri in Italia. E il titolo di questo lungo incontro, lungo confronto è «Anche Amazon ha bisogno di noi». Pensate che Messaggerie è il più grande distributore in Italia, fa circolare il 37% dei libri italiani, ha 190.000 titoli in magazzino e un magazzino che misura 40.000 metri quadrati. E ci racconta in questo molto interessante articolo che trovate alle pagine 26 e 27 della Stampa: ogni giorno spediamo 60-70.000 volumi, garantiamo al 98% l'evasione dell'ordine in giornata, ma non rappresentiamo il peso maggiore, incidiamo tra l'8 e il 12% del prezzo di copertina, perché una delle polemiche sulla catena del libro, che ha anche causato un po' la crisi dell'editoria italiana, è che ai distributori appunto spetterebbe una percentuale troppo alta del guadagno. Se qualcuno, sempre tenendosi pronto ad afferrare saldamente il volante, vuole essere aggiornato su quello che sta succedendo a Roma, all'ATAC, l'azienda dei trasporti sull'orlo del fallimento, sul Messaggero trova nelle pagine di cronaca ATAC, guasti e scioperi, raddoppiate nel 2017, le corse degli autobus soppresse. Sapete che per questo l'ATAC è anche stata multata. Nel primo semestre sono stati persi 6,5 milioni dei chilometri di servizio di superficie programmati. Il record è stato a giugno, con un taglio del 16,5%. Torniamo invece all'Avvenire, che ha molte pagine dedicate alla ricostruzione a un anno di distanza dal terremoto, e qui Pino Ciociola, inviato ad Amatrice, ci racconta tante storie al femminile. La ricostruzione comincia dalle donne, ci siamo rimboccate le maniche per rinascere tutti. Tengono insieme ricordi, sofferenza e futuro. Sabrina, per esempio, la storia appunto di Sabrina, che porta via le macerie con un camion. Sapete che abbiamo visto anche ieri dai numeri, solo circa il 10% delle macerie è stato rimosso a distanza di un anno. E tra l'altro invece c'è Arianna, che compie gli anni proprio il 24 di agosto e naturalmente ricorda esattamente un anno fa la sua vita cambiò completamente. La pagina Mondo dell'Avvenire ci ricorda, ci aggiorna su alcune crisi di cui ci dimentichiamo purtroppo. Al di là della notizia, l'avete sentita anche nella controcopertina di questo appello all'ONU per usare molta cautela nell'utilizzo dei cosiddetti soldati robot, e tra i firmatari di questo appello c'è anche il fondatore di Tesla, Musk, e il cofondatore di Apple, Wozniak, e l'astrofisico Stephen Hawking. Ma al di là di questo c'è anche un aggiornamento dalla Sierra Leone, dove una settimana fa c'è stata una frana e i morti sono già 500, a cui si aggiungono 600 dispersi. I missionari, che spesso sono le uniche antenne che si possono avere in questi luoghi, dell'Africa, ma anche di altri paesi e di altri paesi in altri continenti, sono appunto le uniche antenne quando l'informazione non riesce a raccontarci in diretta quello che sta succedendo. Sempre più tragico il bilancio della frana, si scavano fosse comuni. I missionari dicono all'origine di questa tragedia c'è il disboscamento. Poi anche un aggiornamento dalla Siria, altro paese, altra zona di cui ci siamo dimenticati, come se tutto fosse risolto, e così purtroppo non è. Raid russi su Zeir Erzor, uccisi almeno 200 jihadisti. Mosca intensifica gli attacchi contro le postazioni del Daesh. E adesso, secondo le dichiarazioni dei militari russi, il Ministero della Difesa russo in particolare, tutta la provincia di Aleppo è completamente libera. Un aggiornamento anche sullo scontro che c'è in Medio Oriente in questo momento, nel Golfo, tra l'Arabia Saudita, che sapete ha rotto i rapporti diplomatici con il Qatar e ha invitato molti altri paesi a fare lo stesso. Riyadh accusa il Qatar e blocca i voli per la Mecca, quindi un'altra crisi che non accenna a risolversi. Dal Fatto Quotidiano un'interessantissima intervista di Giampiero Calapada Abu Mazen, il presidente dell'autorità palestinese, intitolata, questo è un titolo molto forte e naturalmente anche qui spunto di riflessione e di discussione su questo tema, l'ISIS sarà sconfitto quando ci sarà lo Stato di Palestina. Più dell'80% delle vittime di questo terrorismo non sono in Europa ma nel mondo arabo. Vi dicevo l'approfondimento su questa vicenda della passione artistica dei deputati della Camera. La Camera la trovate su Libero, pagina 11, lo racconta Franco Bechis. La Camera ha 4.866 dipinti, ma ne compra altri. Poi dalle pagine interne del Sole 24 Ore vi segnalavo la seconda puntata di questa inchiesta di Leopoldo Benacchio sulla la prima puntata è stata pubblicata l'11 di agosto, lo trovate anche su internet, sui nuovi satelliti, e in particolare questa puntata ci spiega cosa sono questi microsatelliti. Costruiti da atenei o scuole qualificate, hanno avuto impulso dalle scelte politiche di Obama. C'è anche naturalmente una foto spettacolare, una foto divisa in tre con tre fasi diverse dell'eclissi, ma per queste foto vi consiglio davvero di guardare su internet, perché ci sono alcuni, e anche sul Sole 24 Ore c'è una fotogallery delle eclissi, sono veramente spettacolari. Un approfondimento fatto da Claudio Arrigoni sul Corriere della Sera ci racconta questa storia che potrebbe essere anche definita inquietante per l'utilizzo che si fa della medicina, perché naturalmente della ricerca, dei nuovi, della ricerca soprattutto sul genoma, perché sta sempre, una volta che si ha uno strumento scientifico molto potente, sta sempre nell'usarlo nel modo più eticamente corretto. Chi stabilisce che cosa è eticamente corretto è un ginepraio. E da qui questa storia che viene dall'Islanda, intitolata In Islanda non si nasce con la sindrome di Down, perché i test prenatali portano alle scelte dei genitori e che a loro volta portano al dato che nel paese solo uno o due bambini all'anno con la sindrome di Down, cioè la trisomia del cromosoma 21, perché naturalmente si ricorre all'interruzione della gravidanza piuttosto che far nascere un bambino con la sindrome di Down. Era però l'ultima segnalazione per oggi, anche se avevo messo da parte altri articoli, perché i giornali sono come sempre ricchi e interessanti. Un grazie a Peter Bescapè in regia, un grazie a tutti gli ascoltatori che hanno mandato messaggi al 349-238-6666. Una buona giornata da Giulia Crivelli, appuntamento a domani mattina.